beat. Sei coperta di fango, tu cerchi la pioggia, sì. ma la pioggia diventa bile sporca. La solitudine ad un bivio si biforca e ferma il petto, se come l'angoscia. Io mi rifugio nella letteratura, come nel medioevo un pendolo tortura. Per capire gli sbalzi d'umore, bagaglio leggero e tu piccolo fiore. Vivevi sola, capelli d'alluminio, nessuno ne vedeva bruciature d'accendino. 5 giorni, poi l'esaurimento, parenti anaffettivi e muore sul cemento. E col cuore bovino, di metallo alcalino nel tuo condominio. Arrugginita come un macchinario, depressa, basita ai bordi di un binario. Deja. Sei persa fra i mozziconi e fra le luci rosse intermittenti delle gru alla mattina. Siroblio, dedicata a te che non ci sei più e che non so dove sei. Era violento quel lieve sentimento, la tua notte scogliera d'infinito. Ti manca l'appetito, stagione macilenta, ma la tua ragione profuma come menta. E le tue mani scagliano gli oggetti, è un'allucinazione. E poi balbetti, hai iniziato a vomitare male odore. E adesso in fumo il tuo motore. Catturata da una comunità, con un disturbo di personalità, con il coprifuoco e un copione che vive senza scopo in anticollisione. Stai cercando qualcuno che ti accetti, come sei che non vede i tuoi difetti. Ti butti sul lavoro e la carriera, non dormi la notte, pastiglia ogni sera. Deja. Il vento, i fiori e il mare. Voglio unire il sacro al profano. Voglio catturare una lacrima. Voglio catturare un tuo respiro e un po' del tuo profumo. Voglio catturarli e tenerli per me, soltanto per me, in un angolo della mia anima, per usarli come scudo, per prendere la forza, per prendere la rincorsa e non avere più paura. Paura, paura, paura, paura, paura. Ti fanno sentire strana, anche se sei di casa.